Anniversari e compleanni nell'opera di Dio. Un anniversario, come un compleanno, ha sempre un potere psicologico nella nostra mente, sia questo bello o brutto. Infatti, in tutto il mondo, l'11 settembre si celebra il ricordo del crollo delle Torri Gemelle in America, così come in ogni paese festeggiano diversi anniversari nazionali. Anche nel campo religioso sono spesso ricordati certi anniversari come la nascita o la morte di uomini che hanno lasciato una traccia nelle storie della Chiesa oppure dell'inizio di una certa opera nel Regno di Dio. Una cosa certamente buona e utile, ma perché si possa continuare ad avere altri eventi per i quali celebrare anniversari in futuro, vedo la necessità di fissare tre fondamentali obiettivi. Un obiettivo cristiano, un obiettivo universale e uno eterno. Con obiettivo cristiano, mi riferisco al principio definito nella lettera ai Filippesi da Paolo. Poiché a voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Fil 1.29, la vera fede, che salva per essere tale, deve essere posta in Cristo, quale il personale salvatore e padrone della vita, piuttosto che in una fede in un Dio vago. Solo in questo modo si può parlare di una fede cristiana. Così come la vera fede, per essere tale, ha bisogno di due elementi, cioè la fiducia e le opere, anche la fede cristiana, per essere tale, ha bisogno di due elementi, fiducia in Cristo e la sofferenza. Chi pone fede in Cristo deve accettare anche le conseguenze di tale fede. Pur essendo una realtà che la vera fede produce una gioia ineffabile, 1 Pt 1.8, si deve pure accettare la sofferenza procurata da tale abbandono. Il primo aspetto della fede sembra essere accettato a occhi chiusi da tutti, ma ho l'impressione che il dover anche soffrire non sia stato accettato dalla maggioranza dei credenti in Cristo. Eppure, sta scritto nell'eterna parola di Dio, che tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. 2 Timoteo 3.12. Da notare, quelli che vogliono vivere pienamente, cioè in modo conforme al volere di Dio, saranno perseguitati. Perciò, non è possibile vivere con una visione cristiana e non soffrire, a meno che, per non soffrire, si ricorra all'espediente del compromesso o dell'ingiustizia. Nel XXI secolo sembra essere stata acquisita la mentalità che soffrire per Cristo sia un fatto negativo, tanto è vero che il Vangelo del progresso o del benessere è molto ascoltato. A testimonianza di ciò, se un libro ha avuto un vero successo, questo è la preghiera di Jabez, nel quale è esposto il racconto di un uomo che ha chiesto di non soffrire e ha ottenuto esaudimento da Dio. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, scrive Pietro, armatevi anche voi del medesimo pensiero, 1 Pt 4.1, cioè mettetevi in animo di dover soffrire. Un messaggio inferiore a questo non è il cristianesimo e non può scaturire da una reale e completa visione cristiana. Gli anniversari celebranti l'avvio di un'opera compiuta per Dio sono sempre belli, ma, anche in questo caso, è utile ricordare che l'inizio di tale opera in genere non è accompagnato da canti e gioiose preghiere di fratelli che ringraziano. Anche questo aspetto è bene tenere presente, perché si ha l'idea romantica che Dio apre, o meglio spalanga, ogni porta e che tutto fili per il meglio. Spesso però non è così. Quando ci si prefigge un obiettivo, spesso sorgono dubbi, ripensamenti, si pensa come iniziare, dove iniziare. E il più delle volte si possiede anche una certa paura, una paura che noi riteniamo non spirituale né cristiana. Continuiamo ad avere sempre quella visione romantica del cristianesimo, quando invece la fede, cioè quella certezza di cose che non si vedono, abbraccia anche l'elemento umano della paura. Quando il coraggioso Gedeone, una storia descritta nel libro dei Giudici, era deciso di combattere i nemici di Dio, aveva paura, e Dio stesso gli disse: «Se hai paura, scendi all'accampamento con Purà, tuo servo». Al tempo del sacerdote Esdra, quando la città era stata distrutta dai nemici, i giudei ristabilirono l'altare sulle sue basi, benché avessero paura a motivo dei popoli delle terre vicine. Esdra 3.3. Pure il coppiere Neemia, alla domanda del re riguardo alla sua palese afflizione, ebbe paura di rispondere. Neemia 2.2. Perciò, tante volte quando si inizia un'opera per Dio non sempre ci si sente spinti e incoraggiati da un migliaio di angeli, in genere non si sente un coro celestiale, né si è incoraggiati da altri credenti, i quali casomai continuano a pregare perché Dio spinga degli operai nella sua messe. Ma una visione cristiana tiene conto di questi elementi, e anche l'indifferenza umana o la contrarietà, a volte, sono dati da Dio per provare la nostra determinazione nel voler compiere un'opera specifica per Dio. È sufficiente leggere la vita di grandi missionari per renderci conto di come spesso abbiano iniziato la loro opera tra grandi difficoltà, quasi insopportabili. Gesù stesso iniziò il suo compito di testimone del Padre con la tentazione da parte di Satana. Se non leggiamo questo episodio come un semplice fatto di cronaca, ci rendiamo conto che Satana, cioè l'avversario, voleva impedirgli di iniziare il mandato ricevuto e, solo basandosi sulla parola di Dio, Gesù ha potuto essere più che vittorioso. Così, chi inizia un'opera cristiana deve farlo basandosi su una chiamata da parte di Dio, deve credere, sulla base della sua parola scritta, che ciò è giusto e poi partire. Un gioioso anniversario, come un compleanno, servono per ricordare che tutto procede da Dio, continua per il volere di Dio e Dio è colui che apre e chiude. Perché si possano ancora ricordare anniversari e compleanni in merito all'opera di Dio, occorre avere anche una visione universale. Questa è una verità colta dalla prima lettera di Giovanni. Chiunque crede che Gesù è Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. 1 GV 5. 1. Questo discorso, un poco articolato per la nostra cultura, vuol dire che ogni persona nata di nuovo ama Dio e, se ama Dio, amerà anche tutti coloro che sono nati di nuovo per mezzo dello Spirito Santo. In pratica, ogni persona definentesi cristiana per la nuova nascita ama e deve amare tutti coloro che hanno realizzato la nuova nascita senza distinzione di età e razza. Senza questa visione universale, come è altrettanto universale la famiglia di Dio, una qualsiasi opera cristiana è destinata a fallire e a essere limitata nel suo sviluppo. Nella sua attuazione pratica, la difficoltà sarà nell'individuare chi è nato di nuovo, ma se crediamo al principio della fisica secondo il quale se K è un effetto, esiste anche una causa, così anche nel campo spirituale, dagli effetti si può individuare la causa. E poiché si parla di una nascita nuova, per forza di cose succede qualcosa di nuovo, che Paolo riassume con queste parole, perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. 2 Cor 5.16-17. Un discorso del genere vuol dire che normalmente ognuno di noi conosce Gesù Cristo a livello di un semplice apprendimento mentale, ma quando avviene l'esperienza divina della nuova nascita, si instaura un rapporto spirituale tutto nuovo con Gesù. Da quel momento, Cristo diventa il suo Dio, l'unica persona alla quale rivolgere preghiere, alla quale rendere ogni forma di adorazione e venerazione. Gesù diventa il suo maestro, il suo padre spirituale, il suo padrone assoluto. Se le cose vecchie sono passate, significa che il cambiamento non è avvenuto a livello formale o religioso. Non si tratta di migliorare il cammino della propria espressione religione e, cioè, se prima dicevo 10 Ave Maria, ora ne dico 50, oppure se prima pregavo solo San Gennaro, ora prego anche Padre Pio e altri santi. Per nuova vita si intende un cambiamento radicale del mio rapporto con Gesù Cristo. Se prima era convenzionale, ora è un rapporto personale, intimo, un a tu per tu. Una simile visione cristiana sarà grandemente benedetta da Dio, ma fortemente ostacolata da chi non ha realizzato la nuova nascita, oppure avendola realizzata rimane vittima della mentalità da incredulo. Un terzo elemento per poter ricordare anniversari e compleanni nell'opera di Dio è quello di avere una visione eterna. Prendiamo come spunto per le nostre riflessioni una preghiera di Mosè a Yahweh, il suo Dio, in occasione dell'approssimarsi della propria morte. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Sali su questo monte Abarim e contempla il paese che io do ai figli di Israele. Dopo averlo visto, anche tu sarai riunito al tuo popolo, come fu riunito Aaron e tuo fratello». Mosè quindi parlò all'Eterno, dicendo: «L'Eterno, il Dio degli spiriti di ogni carne, costituisca su questa assemblea un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro, e li faccia uscire e li faccia entrare, affinché l'assemblea dell'Eterno non sia come un gregge senza pastore». Allora l'Eterno disse a Mosè: «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito, e posa la tua mano su di lui, poi lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta l'assemblea, e gli darai gli ordini in loro presenza, e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta l'assemblea dei figli di Israele gli obbedisca». Numeri 27.1-23. Dunque, era giunto ormai il tempo per Mosè di lasciare il suo compito di guida del popolo di Israele, ma, davanti al suo Dio, espresse il proprio amore per il popolo. Non disse come alcuni conduttori di chiesa e fondatori di missioni cristiane: «Finché ci sono io le cose vanno avanti così e poi alla mia morte si faccia quello che si vuole». Chi ama l'opera di Dio più di se stesso si interessa, prima di lasciare questa terra, che l'opera continui. Sempre meglio anche dopo la sua morte, perché noi siamo limitati, operiamo per un tempo, mentre l'opera di Dio è eterna. Per questo, chi avvia una testimonianza deve avvalersi di altri collaboratori, non solo perché da solo non riesce a fare tutto, ma perché altri imparino come portare avanti la visione, affinché questa non subisca arresti dopo la sua morte. Se non si possiede questa visione eterna, non si è degni di lavorare per il regno di Dio, che è eterno. Gesù stesso, come uomo, sapeva che il suo compito sarebbe terminato. Quindi si preoccupò di scegliersi 12 uomini che avrebbero continuato la sua opera. Li tenne con sé per un po' di tempo, li istruì, fece vedere come si doveva vivere da soli e in compagnia. È necessario in questo, appena possibile, imitare Gesù. Del resto, anche Mosè aveva molto vicino un suo condottiero, Giosuè, mentre l'apostolo Paolo aveva scelto il giovane Timoteo come suo collaboratore, ingiungendogli: «E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri». 2 Tim 2.2. Se non hai anche queste visioni eterne, chiedile a Dio, perché, come disse Gesù: «Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono». Il che vuol dire un esaudimento certo. Settembre 2010, Ellero.